3, 2, 1. Puntata numero 0 dell'incredulo, perché io sono incredulo, a me tutta questa storia New Age e l'energia e quello e quell'altro e gli arconti sono tutte baggianate, a me non mi fregano e non mi fregano neanche tutte queste storie, prendi la boccettina e l'acqua e la pianta e fai l'infuso, tutte baggianate, ma siccome... Come dicono gli argentini, sicuro se lo llevaron preso, e cioè sicuro lo misero in prigione, tanto vale cominciare a capirne di più, anzi a saperne di più. E per fare questo dove si va? O si va su YouTube, come si fa oggigiorno e il più delle volte quello che si trova è spazzatura, oppure si chiede a qualcuno che ne sa. E... la persona più vicina a me, più vicina a noi, più vicina agli ascoltatori di Radio Big World è proprio uno speaker di Radio Big World che ha dedicato la passata stagione a spiegare agli zucconi increduli come me certi aspetti della realtà che all'occhio con le fette di prosciutto sopra, come c'ha l'incredulo, come c'ho io, sono molto difficili da vedere. E la nostra speaker, la nostra esperta è e sarà Elisa Pasquini. Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio Big World in questa nuovissima trasmissione che mi vedrà alle prese con un incredulo che dovrò far pian piano cambiare idea su determinate cose. Chi mi conosce già, io ho fatto parte della trasmissione chiamata Pillole di Consapevolezza insieme a altri due miei colleghi e vi ho raccontato un pochino di quello che so, quindi dei fiori di Bach, dei fiori australiani, dei cristalli, del Reiki, della legge di attrazione e del benessere animale, perché io di questo mi occupo, del benessere umano e del benessere animale. Elisa, io sono venuto fuori dalla scuola, insomma, dove ho scaldato i banchi più che studiare, ma insomma sono venuto fuori un super galileiano e baconiano, quindi solo quello che si dimostra con il camice bianco è ripetibile, bla bla bla bla bla. Ma tu... come hai scoperto, anche tu avrai fatto le scuole come me, però poi tu hai preso un'altra strada. Come hai scoperto che rispetto all'educazione tradizionale che abbiamo ricevuto c'è qualcos'altro? Io nasco abbastanza razionale, nel senso che comunque ho fatto scuole scientifiche, lauree in materia scientifica, quindi diciamo che come te all'inizio di tutto questo mio percorso ero abbastanza scettica e incredula. Fatto sta che è entrata nella mia vita un essere superiore, come lo chiamo io, della mia canina, che era piena di paure, timori, preoccupazioni. Per riuscire a aiutarla, io diciamo che mi sono attaccata a qualsiasi cosa, compresa l'acqua santa. E in questo mio percorso ho deciso poi di affrontare un corso di educatori cinofili, non perché volessi diventare un educatore cinofilo o un istruttore cinofilo quale oggi sono, ma per cercare di aiutare lei a vivere meglio in questo mondo. In questo mio percorso ho incontrato per la prima volta i fiori di Bach e li ho presi per me e per lei, pensando che vabbè, al massimo è acqua tinta e non mi fanno niente. Invece piano piano su di me hanno funzionato, su di lei hanno funzionato, sulle persone a cui le ho date in un momento magari di emergenza hanno funzionato. Ho detto vabbè, se funzionano io ne devo sapere di più, e da lì è iniziato il mio percorso con i fiori. Nel mentre del percorso mio con i fiori ho incontrato anche lì per caso un'altra cosa, che è il Reiki. una persona che è stata, è appunto Francesca, che avete conosciuto in Pillole di Consapevolezza, era prima entrata in contatto con mia madre e aveva iniziato a fare dei trattamenti a lei per cercare di farla stare meglio. Un'amica comune mi disse: guarda, vai anche te da Francesca perché avrebbe piacere di provare a fare un trattamento su di te. Ora, vabbè, non voglio entrare nel personale, comunque mia madre ha una malattia neurodegenerativa, per cui lo stress che c'è in famiglia, o comunque che c'era in famiglia, era abbastanza alto. E da lì il Reiki mi ha aperto nuovi mondi, mi ha aperto nuove visioni, mi ha dato la forza per mollare un lavoro a tempo indeterminato, un ruolo di manager in un'azienda informatica. E facendo il primo livello e poi il secondo livello ho raggiunto una consapevolezza tale che oggi seguo la mia vocazione, e seguire la mia vocazione vuol dire ogni giorno sperimentare medicine energetiche, perché così si chiamano, diverse, quindi che vanno dai fiori, dai cristalli, dal Reiki e qualsiasi altra cosa mi si presenti nel mezzo. Elisa, alla cinofilia più o meno ci arrivo, nel senso che avevi già dei tuoi animali e un'esperienza con i cani e hai deciso di approfondire e quindi di fare questi corsi, questi esami per diventare educatrice cinofila. Ma i fiori di Bach, il Reiki, quando tu parli di percorso, che tipo di percorso hai fatto? Ossia, hai studiato dei libri, sei andata in un monastero tibetano, hai viaggiato per i sette mari? Che significa fare un percorso in questi soggetti, in queste materie? Per prima cosa significa fare un percorso su se stessi, nel senso che fiori, diciamo, fatti a livello riconosciuto dal Bach Center, quindi dall'ente che porta oggi, fa le veci di quel del dottor Bach che non c'è più, significano tre livelli di studio. Quindi fai un primo corso in cui impari a conoscere i fiori, cosa fanno, più o meno a che emozioni sono legate, un secondo livello in cui li approfondisci, quindi capisci bene le varie sfaccettature, e un terzo livello in cui devi fare anche un percorso su di te, quindi lavorare per essere un consulente vuol dire essere una persona che in prima battuta è coerente e lavora su di sé per non portarsi dietro maschere, ego, pregiudizi e tutto quanto. Finito il percorso di tre livelli per le persone, uno può chiedere se vuole di fare il percorso per gli animali, e anche questi sono tre livelli. È chiaro che in questo caso non lavori su di te, in quanto non lavori su di te per essere una persona più consapevole, ma lavori su di te per imparare a capire meglio le emozioni degli animali. Anche questi tre sono tre livelli, e dopodiché sei abilitato a essere un consulente per gli animali. Percorso con il Reiki prevede anche questo 3-4 livelli. Io al momento sono al secondo, tra poco inizierò al terzo. Quindi in un primo livello lavori su di te, quindi finito il percorso, letti i libri, fatto il seminario, sei, diciamo così, abilitato a fare trattamenti per te stesso e per i tuoi familiari. Con il secondo livello invece puoi trattare persone esterne al nucleo familiare, quindi che hanno un'energia diversa alla tua. Col terzo e poi con il master invece diventi un maestro in senso buddista, e cioè puoi fare sì che altre persone possano entrare in contatto con il Reiki e con i vari livelli. Quanto tempo hai impiegato fino a qui per dedicarti all'apprendimento di queste materie e al loro perfezionamento, al livello che sei adesso? Tanto, tanto, tanto, nel senso che, a parte che è un continuo studiare, un continuo imparare, un continuo osservare, però tieni conto che ho fatto il primo livello di educatore cinofilo nel 2014, il secondo nel 2015, nel 2015 poi ho iniziato il mio percorso di fiori e si è chiuso nel 2017, il mio percorso di Reiki è iniziato nel 2016 e ancora non si è chiuso. il percorso di cristalloterapeuta iniziato nel 2017 e ancora va avanti. Nel frattempo sono iscritta alla scuola di floriterapia per i flori australiani, che finirà a giugno, e la scuola di naturopatia per il benessere animale, che è una scuola triennale, quindi è un continuo lavorare, un continuo studiare. Su queste materie non si deve mai credersi arrivati, e tra l'altro, essendo iscritta all'albo dei consulenti di Fiori di Bach, noi per obbligo dobbiamo fare 8 ore di formazione continua tutti gli anni, quindi volente o non volente, io finché vorrò fare questo lavoro dovrò continuare a studiare. Quindi studio matto e disperatissimo, per parafrasare / citare il nostro... Basta! Siete stati bravi fino a oggi, mettetevi a pensare altro, guardate gli uccellini, vai, eccoci. Il nostro Leopardi. Ma quando noi andavamo a scuola, studiavamo a casa, o perlomeno così facevo io, studiavo un po', imparavo un po', raffazzonavo, poi me ne andavo a scuola, ripetevo a pappagallo quello che più o meno mi era entrato in testa e poi facevo una doccia e me ne scordavo. Nel tuo caso e nei soggetti che tratti probabilmente non è così. Quanto tempo si impiega a lezione, quindi andando proprio a scuola con un maestro, e quanto poi viene richiesto di tempo e di energie per la pratica quotidiana? Imparare i fiori o imparare le metodologie dalla prima all'ultima è abbastanza fine a se stesso, nel senso che sì, ti servono per partire, ma poi sei te con la tua sensibilità, con la tua pratica, con il tuo imparare a affinare varie tecniche, a riuscire a dover metterci del tuo. Quindi diciamo che il saper fare è un conto, e quindi il sapere in sé per sé, mentre il saper essere è un lavoro costante. Quindi io sicuramente non sono più la consulente che potevo essere un anno fa, perché comunque nel frattempo io ho affinato, ho migliorato, sono entrata più in empatia con le persone, con gli animali con cui lavoro, quindi è tutto un mondo in continua evoluzione. Io sicuramente, finite con la scuola di floriterapia australiana, non sarò più la persona che fa le consulenze di oggi, ma già lo vedo quando vengono le persone, ho attenzioni diverse, ho orecchie diverse, ho un cuore diverso. Quindi non è come imparare la poesia dei leopardi, è imparare a conoscere i leopardi. Elisa, un'ultima domanda per capire con chi mi sono messo a duellare, e cioè: questo percorso è riservato a pochi e con determinate caratteristiche, o più o meno tutti sarebbero in grado, con la volontà, di percorrerlo un po' come hai fatto te, stai facendo tu? Certo, nel senso che comunque è una cosa che ti deve piacere, ti deve appassionare, ti deve interessare. Un percorso del genere è aperto a qualsiasi tipo di persona, però deve essere attratta da questo tipo di attività, da questo tipo di esperienze, dal voler lavorare su se stessi, perché insomma tante persone magari non hanno voglia di mettersi in gioco e di fare un percorso in cui ogni giorno devi scardinare un pezzo di te che non va più bene, che magari non ti appartiene più. A volte, ma io lo vedo anche con i miei clienti, ci sono tante persone che magari dopo un paio di mesi mollano perché entrano in conflitto con qualcosa di loro che non vogliono affrontare. Quindi imparare i fiori, imparare che cos'è il Reiki, imparare i cristalli, è aperto a tutti. Però poi sta a noi o alle persone che si approcciano decidere quanto in profondità vogliono andare e quanto è la loro voglia di entrare in energia con queste cose, perché comunque sia di energia si parla, di campo elettromagnetico, di fisica quantistica, di medicine energetiche, di terapie che non sono come prendersi la pillolina che ti blocca i sintomi. è doloroso a volte, quindi tanto dipende da, dalla persona che vuole intraprendere questo percorso. Non è da tutti, però tutti ci si possono avvicinare, anche se non a livello profondo. Insomma, cari ascoltatori di Radio Big World, Elisa ha i titoli, l'esperienza e la conoscenza per duellare con me, ma a me non mi fregate il cambiare se stessi, l'imparare continuamente, il mai smettere di studiare e di mettersi in discussione, tutte baggianate. Io sono nato perfetto così e se mi serve qualcosa vado su Wikipedia. Pertanto, Elisa, grazie di aver accettato di perdere questa sfida con me. Va bene, vedremo. Puoi vincere qualche battaglia, ma vedremo chi vince la guerra.